questa è la lezione del 14 aprile. E gli audio sono a posto sul sito, ci sono tutti ormai. Scusate. Prego. Per il workshop del team live non ce ne sono. No. Ciao. Che ne sappiamo noi del workshop? Allora, discutiamo su qualche tema. Tu c'hai qualcosa da dire, Fabio? Guarda un po'. C'è Fabio che ha qualcosa da dire. Parla. Allora, cioè io ho letto il libro di Bagnez. Tutto? No, sono arrivato fino alla prima e alla seconda parte. Ho tralasciato alcuni argomenti su argomenti relativisti, alcuni li ho tralasciati. Nella prima parte? Cioè, la prima parte, quella dove fa tutto il percorso storico, che l'ho letta. Sì. Poi ho letto la seconda, la terza, dove sono i quattro filosofi. Ah, sempre nella... Ah, sì, no, che è la parte più grossa. Quella ancora no. Non, vabbè. Quella ancora non l'ho letta. Vabbè, ma basta la prima parte, perché ci siamo... Allora, c'è un punto in cui Bagnez tratta la questione... della forza, no? Cioè, che io l'altra volta in una lezione avevo fatto la domanda che scomparendo uno sfondo, diciamo, di giustizia comune, di bene comune, e prende piede così una posizione estremamente relativista, può apparire la situazione in cui vince il più forte. Ho trovato la risposta che dai Bagnez nel capitolo sull'etica, credo l'etica, e in cui lui dice che non c'è nessun problema su questo rapporto di forza, anche perché l'universalista fa lo stesso. Anzi, l'universalista dice che come se il relativista dice è giusto usare la forza, perché comunque ci devo far vedere le mie opinioni, l'universalista dice sono legittimato a farlo perché la mia è la verità. Sono più legittimato di te. E storicamente l'ha fatto questo. E storicamente l'ha fatto. Scusate, sì. Ma sto aspettando una telefonata importante. Sì? Ah no, scusami, c'ho lezione, andiamo. Non era la telefonata giusta. Vai avanti. Perso il filo. E però, cioè, ok, ha dato questa domanda qua, però questa ha dato questa risposta. Però questa risposta rimane comunque sia stretta tra una scelta tra due opzioni, cioè quella relativista e universalista, e si ripropone la questione del dualismo. Cioè, nel senso, io o scelgo che sono relativista o scelgo che sono universalista. Di Bagnez dà una visione delle tematiche relativiste ampie, però comunque sia è una scelta tra due opzioni, quasi considerando delle due opzioni quasi bloccate, ferme, che sono quelle e basta. Cioè, puoi fare questa scelta. Invece, non lo so, a mio parere la scelta è un po' più articolata. Dopodiché, quando lui dice vince il più forte, giusto che vince il più forte, un po' però non mi trovo in disaccordo su alcune cose. Nel momento in cui c'è una società fortemente capitalistica come la nostra, all'interno delle quali vengono esercitate delle pratiche di potere e di dominio dall'alto verso il basso, e la maggior parte delle volte chi attua queste pratiche è chi detiene la conoscenza e chi detiene i mezzi di comunicazione, i mezzi di produzione, chi detiene il capitale in tutte le sue forme, determina poi, grazie a queste pratiche di dominio, delle aree all'interno delle quali decide cosa far passare. Quindi si va a limitare la libertà da un certo punto di vista. E nel momento in cui questa cosa diventa estremamente radicale, il principio di forza viene messo in discussione. Questa è la tua obiezione, cioè, o comunque... Cioè, la... sì, poi dopo io mi sono dato delle domande, però discutiamo, io mi sono dato delle risposte, discutiamone. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Quello che avete fatto adesso? Cioè, intanto avete capito la sua obiezione o la sua, diciamo, richiesta di approfondimento? Cioè, nelle analisi che fai, Bagnez... Sì. A mio parere vengono tralasciate delle questioni che però sono determinanti all'interno di una scelta tra relativismo e universalismo. Non è soltanto una cosa teorica. Cioè portano, questa scelta si porta dietro dei contesti. Eh sì. E in cioè, non so, non vorrei fare lo storico dicendo certe cose, però cioè, sono fondamentali ed è fondamentale considerare anche le diverse posizioni che possono essere prese in determinati punti storici. In un momento come questo, in cui il capitalismo è lo sfondo, se si pone come sfondo un principio di forza, qui cosa si, allora cosa diciamo? Abbiamo perso in partenza? Avremmo perso comunque, cioè... Ho capito, però, vabbè... Abbiamo perso da quando c'è la civiltà, mica solo da quando c'è il capitalismo. Cioè, è da quando si sono instaurate delle relazioni sociali in cui una parte della società ha il monopolio dell'uso della forza, che si pone questo problema. Storicamente abbiamo visto poi in realtà che le forme economiche, sociali e politiche evolvono, cambiano. Prima o dopo, più o meno rapidamente, ma non siamo fermi all'epoca dei faraoni, né all'epoca dell'impero babilonese, né all'epoca dell'impero persiano. Quindi vuol dire che in qualche modo anche questo principio della forza non è così fisso o così invincibile. Cioè, se fosse vero che forse come in Oriente è più potrebbe essere, cioè l'Oriente ha una continuità, diciamo le civiltà dell'Oriente hanno una continuità storica molto maggiore della nostra. Fino al 1949-50 in Cina c'erano stati cambiamenti di dinastie, certamente, però è come se da noi fossero rimasti i faraoni per 4.000 anni, cambiando un po' di cose, ma altre città orientali no. Va bene, comunque, vi pare di aver capito quello che dice Fabio? Perché io non so se l'ho capito del tutto, quindi, però rispondendo adesso forse... Allora, io provo a dire quello che penso io, poi quello che ho capito della sua obiezione, perché mi pare che ci sono componenti diverse. E quindi forse è meglio metterle Allora, provo a prenderla alla lontana, perché sto vedendo delle altre cose su questo argomento, però c'entra, insomma, in qualche modo. Quando nasce in Europa lo Stato-governo, diciamo tra 400, 500 e 600, cioè quando si dissolve il mondo medievale, quindi si dissolve l'impero che era stato, no? Cioè dopo che cade l'impero romano d'Occidente, 450 erotti, rimane quello d'Oriente, di Costantinopoli, rimane qualche secolo di Casino, però subito dopo, voi sapete, faccio un po' di storia anch'io perché bisogna, cioè, perché almeno cerchiamo di capire a grandi linee come sono andate le cose. C'è però l'aspirazione a unire nuovamente in qualche maniera, a rifare l'impero romano, no? Ci vogliono circa 4 secoli, l'impero romano cade nel 400 e rotti, nell'800, non mi ricordo quando, nel nono secolo, un franco, il secondo esponente della dinastia di Carolingi, Carlo Magno, viene incoronato imperatore ad Aachen, in Germania, ma vicino alla... E si rifonda qualcosa che si chiama Sacro Romano Impero. Sacro Romano Impero. C'era il riferimento all'impero romano precedente. Poi questo impero alla morte di Carlo Magno si disgrega, ci sono altri secoli di casino, però si ricrea poi dopo 4-5 secoli con la dinastia degli Asburgo e con diciamo, nuovamente l'Europa, ed è il momento in cui, però intanto nel frattempo che cosa è successo? Che le più grandi comunità culturali, linguistiche dell'Europa, non tutte, due soprattutto, si sono, posto delle fondamenta per quello che noi chiamiamo lo Stato moderno, sono la Francia e l'Inghilterra, si sono costituite come nazioni. La Germania e come terza la Spagna, certo. La Germania e l'Italia no, rimangono, come dire, separate, anche se sono già più o meno delle comunità linguistiche, cioè hanno una lingua comune. Dalla dissoluzione del latino, il latino non è mai stata una lingua parlata da tutti i popoli dopo il IV, V secolo a.C., però è comunque rimasta la lingua colta, ufficiale, diciamo, dell'Europa, ma... poi c'erano le piccole comunità linguistiche, per esempio pensate come è andata in Inghilterra, insomma, o più ancora in Francia, anche lì c'è una questione della forza, anche nel modo in cui sono state le lingue nazionali, c'è almeno in alcune di esse, c'è la questione della forza. Il francese nell'undicesimo secolo, l'attuale francese più o meno, l'antenato dell'attuale francese, è una lingua parlata in una piccolissima parte della Francia, la cosiddetta Île-de-France, nella zona intorno a Parigi, insomma. In tutto il resto della Francia si parla lingue diverse. Il meridione parla una lingua simile all'italiano del provinciale, poi c'è una lingua che si chiama occitano. Nel nord e nel nord-ovest della Francia si parla una lingua con influssi, che è il bretone, insomma, lingue addirittura indo-europee, sì, ma non latine, insomma, non con certi latini, cioè lingue simili a quelle che si parlano in Irlanda, per esempio, no? della sottofamiglia gaelica. Nell'interno si parla una quantità di dialetti, di lingue diversissime. La Francia è una... Quando Luigi IX, che è insomma uno dei primi fra il XIX e il XIX secolo, intraprende l'opera di unione politica e diciamo sociale di questo paese, che qualche secolo dopo porterà poi alla guerra con gli inglesi, Giovanna d'Arco, eccetera, eccetera, no, ma insomma comincia la prima cosa che fa, impone a tutte le zone diciamo la Francia l'uso della lingua che si parlava a Parigi e la piccola zona per un anno di meno di 100 chilometri, cioè la lingua dell'interfaccia. quella lingua diventa la lingua, no, diventa il francese. Ed è una, ovviamente è una battaglia, è una lotta che dura per secoli dopo, perché tutte le popolazioni locali continuano a parlare la loro lingua, non in Bretagna parlano in bretone, in Provenza parlano in provenzale, gli occitani parlano l'occitano, però la lingua dello Stato, della nazione, diventa il francese, che si chiama francese perché, come dire, si chiama francese in maniera un po' arbitraria, perché la Francia era tutta, no? Cioè, tutto quell'insieme di persone abitate. E diciamo, quindi è una, ed è una, come dire, battaglia diciamo combattuta con mezzi violenti, cioè questo uso della lingua viene imposto, c'è una certa violenza con la quale vengono. La questione della forza è come dire, ineliminabile perlomeno nel senso che è sempre stata presente in tutte le narrazioni della formazione delle diciamo, civiltà che si sono verificate e che si sono create. La riflessione antropologica successiva dell'Ottocento, fra 800 e il primo 900, ha convinto molti antropologi a ipotizzare, a rendersi conto, a prendere atto che nelle poche società, non solo pre-industriali, ma anche pre-agricole, che l'uomo bianco incontrava nel corso della sua espansione, per esempio tutte le società del Nord America, della parte settentrionale del continente americano, una parte delle società africane, gli eschimesi, insomma tutti questi popoli qua che non conoscevano l'agricoltura, ma ancora vivevano di caccia e di raccolta, tutte queste società che fossero molto meno violente delle società cosiddette civili, no? Ora però questa cosa stranamente contrastava invece con un tipo di racconto e di narrazione che fu quella che, torno al punto che fu quella che di fatto fondò la nascita dello Stato moderno. Questo racconto è contenuto in molti posti, ma c'è un libro insomma fondamentale in cui questo racconto è esposto con più lucidità che in altri, ed è il libro di Thomas Hobbes chiamato Leviathan. Il Leviathan, o Leviatano, come si dice latinizzandolo, è una creatura mostruosa di cui si parla nel passo 2 della Bibbia. E Thomas politico inglese che vive nel XVII secolo, non mi chiedete tanto, non mi ricordo, e quindi vive nel momento in cui l'Inghilterra, sapete che è il paese che ha, in cui c'è stata la prima rivoluzione borghese, diciamo, la prima rivoluzione antimonarchica, a sfondo, diciamo, religioso, insomma, tutta una serie di comunità diciamo, di protestanti radicali, quindi non della chiesa anglicana ufficiale inglese. L'Inghilterra ha, voi sapete che aveva fatto uno scisma, si era separata dalla chiesa cattolica nel XVI secolo, quindi un secolo prima, ma in realtà non la chiesa anglicana non aveva ben poco in comune con gli altri movimenti riformatori, quelli di Calvino, di Melantone, di Zwingli, che si erano espansi in Europa nel corso del Cinquecento e che sono quelli che diedero luogo alla vera riforma protestante. La chiesa anglicana era in effetti una specie di chiesa, diciamo, cattolica, continuava ad avere i riti, i preti si mettevano la palandrana, il vestito lungo, insomma tutti i riti, la messa c'era come la chiesa cattolica, solo che non riconoscevano più la chiesa di Roma. Era stato uno scisma che aveva fatto Enrico VIII, il re, diciamo, di Inghilterra, per dei cacci suoi molto personali, perché era uno che amava divorziare, perché lui non voleva il figlio maschio, era un po' fregato, perché una donna gli dava un figlio maschio, allora lui sapesse la storia, come poteva capitare tutte alla fine. Quando a un certo punto il Papa gli fa e basta, dice, scusa, la quinta, che era la legge per scortesia, calmati un po'. Questo è ricordato che era uno collerico, cioè, forse vi ricordate il famoso ricordo di Holbein, questo personaggio molto concludente, lo scisma da Roma. Lutero aveva appena cominciato con i movimenti riformatori in Germania, però Lutero era una persona, insomma, ma c'era una base, come dire, realmente dottrinale, cioè di dottrina, c'era una ovvia differenza. Non mi spiegava nulla a lui. Allora lui fa lo scisma e forma la chiesa anglicana. Quindi noi adesso li chiamiamo protestanti tutti, però insomma. Dopodiché però questa cosa fa un po' un trauma, insomma, adesso è inutile che vi spiego tutto, perché un corso di storia dell'Europa, insomma. Comunque fatto sta che nel 1600 e qualcosa, approfittando del fatto che c'è una guerra dinastica tra i Tudor e gli Stuart, non quella tra i Lancaster e gli York di cui parla la Freccia Nera, di cui parla il romanzo di Stevenson messo in scena dalla nostra televisione tanti anni fa. Quindi una guerra dopo, insomma. Vabbè, e c'è una, insomma, rivoluzione e soprattutto una vecchia istituzione che era una specie di consesso di nobili che si chiamava Parliament, che deriva dal termine latino e italiano parlare, insomma, cioè il Parlamento, dopo loro in inglese si dice diverso, to speech or to talk, però poi è rimasto il vecchio Parlamento. Questo Parlamento diventa l'organo e addirittura nella rivoluzione inglese è parecchio cruenta, perché si prende il re Giacomo I e lo si decapita. E il leader di questa rivoluzione, che era un, come dire, puritano, cioè un vero riformatore, quindi Cromwell, per una quindicina d'anni diventa il reggente. Quindi per pochissimi anni, questo è l'unico periodo della vita della storia inglese in cui l'Inghilterra è stata una repubblica, no? Poi dopo però sono poi tornati e poi c'è stata la restaurazione, eccetera. Però quella è stata la prima rivoluzione, vero? E quindi sì. Sì. Ah, senta, scusi, io sono a questo contratto. Bene, insomma, quindi dicevo, si forma questo, insomma, c'è la formazione, diciamo, l'Inghilterra è il primo, insomma, paese in cui la nuova classe sociale che si sta formando, cioè questa classe di commercianti, produttori, capitalisti, insomma, gli imprenditori, che era privata del potere, come dire, politico, prende il potere. Anche quando c'è la, diciamo, restaurazione della monarchia in Inghilterra, però in realtà diventa una monarchia cosiddetta costituzionale, in cui il re, come si dice, regna ma non governa, cioè sta lì ed è una specie di simbolo della stanza. La stessa cosa poi succederà un secolo dopo in Francia, no, succederà pochi, diciamo, decenni dopo in America. L'America, essendo gli Stati Uniti, essendo lontani, non, diciamo, non avevano il, insomma, problema di una tradizione monarchica autoctona, no? Quindi loro fanno la loro repubblica e poi ci sarà l'esperienza della Francia, sono le tre grandi, diciamo, rivoluzioni. Il XVII secolo e il XVIII sono i due secoli in cui prende forma il nuovo Stato moderno. Ora, Thomas Hobbes, che è un, insomma, personaggio, diciamo, interessante, uno dei primi pensatori politici insieme con Botero, ispano-olandese, e con Machiavelli in Italia, il secolo prima. Ovviamente, insomma, più o meno tra il 500 e il 600, il pensiero politico moderno viene fuori, quindi si cerca di formulare una teoria dello Stato in qualche modo, no? Bene, allora, attenzione, Thomas Hobbes è un simpatizzante della monarchia, cioè lui scrive il Leviatano per spiegare perché ci vuole la monarchia, perché è meglio la monarchia che non la repubblica. Voi sapete, voi capite di dove a chi si ispiravano quelli che erano favorevoli alla repubblica. C'erano stati due soli casi nella antichità, diciamo, di regimi democratici o, diciamo, repubblicani, di organizzazioni statali democratiche o repubblicane. Il primo era quello di alcune, neanche di tutte, di alcune polis greche, le città-stato greche, cui la principale famosa è ovviamente Atene, e qualche secolo dopo la prima Repubblica Romana, no? Sia Atene che Roma erano due esempi di, diciamo, repubblica in cui c'erano stati dei re prima, però a un certo punto, insomma, questi re non c'erano più ed era la comunità dei maschi abbienti, quindi dei maschi proprietari di qualche cosa, perché le donne e gli schiavi non contavano nulla sia ad Atene che a Roma, però in qualche maniera c'era così. Però Atene, la Greta, era stata poi, diciamo, questo esperimento ateniese era crollato prima con la guerra del Peloponneso, quindi contro Sparta, che invece era una città monarchica con un re, e poi è arrivato Alessandro Magno, ha fatto un po' di tutto, insomma. Quanto a Roma, sapete bene, chi fu l'affossatore della Repubblica, diciamo, di Roma, un personaggio abbastanza importante chiamato Cesare, il quale non a caso venne proprio assassinato proprio perché stava, però ormai il processo storico era avviato e quindi il successore di Cesare, cioè Augusto, è quello che fonda l'impero romano e la Repubblica di Roma. Però questa idea di una comunità di persone eccetera eccetera era come dire, comunque rimasta, e dove era fiorita per la prima volta alla fine del Medioevo? Beh, in Italia proprio. In Italia, alla fine dell'undicesimo secolo, approfittando del fatto che l'Italia era un po' periferica rispetto al resto dell'impero, alcune, diciamo, città Genova, Firenze, Milano stessa, Pisa, insomma, si organizzano sotto una forma repubblicana. Dura poco pure lì, perché poi pure lì arrivano i principi, insomma, Firenze, che è insomma, l'esempio più glorioso, dura meno di un secolo e mezzo la Repubblica, come dire, fiorentina. Quando scrive Machiavelli nella prima metà del Cinquecento, siamo già nella fase di, diciamo, trapasso, in cui una potente famiglia di banchieri, diciamo fiorentini, i Medici, sta trasformando la Repubblica, i liberi ordinamenti repubblicani, in principato. Però questa idea era forte, insomma, rimaneva, andava. Thomas Hobbes era antirepubblicano, quindi era, come dire, monarchico, però la, diciamo, narrazione che lui fa in questo, come dire, Leviathan è così forte, così potente, così convincente, che finisce per essere fatta propria anche da quelli che sostengono la Repubblica, anche da lì. Quindi è praticamente diventa una specie di paradigma per la formazione dello Stato borghese. Che storia ci racconta? Ci racconta in sintesi questa storia. Funziona? Sì. Ci racconta in sintesi questa storia. Attenzione, che è una storia che sicuramente conoscete già, perché ci è penetrata in tacapa nella testa. Ci racconta questa storia. Dimmi. Posso interrompere un attimo la fare di te? Sì, non lo so. Sì, io sto facendo, diciamo, ma le pare con me o con loro? Devo fermare qua, scusa.